24 mattino. E allora sono le 8 e 21 minuti, ben ritrovati in diretta, eccoci qua 24 mattino da Alessandro Milan. Oggi raccontiamo in questa puntata che abbiamo voluto titolare Noi non ci stiamo, alcune storie di persone che insomma vogliono reagire un po' a modo loro alle proteste e alle polemiche di questi giorni. Intanto voglio salutare un imprenditore, si chiama Enrico Frare, buongiorno e benvenuto a Radio 24. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, chi avesse mai comprato domenica il Corriere della Sera l'ha trovata in un'intera pagina, come si può dire, come si suol dire, come mamma l'ha fatto, no? Esattamente. Nudo, qua, quasi, diciamo nudo. Con le mani però lì, insomma, giusto sì, perché. Esatto, dove non batte il sole. Ecco. Con la frase ogni giorno in Italia un imprenditore rischia di rimanere senza mutande. Perché lei, titolare del e-group di Crocetta del Montello Treviso, ha fatto questa iniziativa? Ma diciamo, ho preso il coraggio in mano e ho fatto questa iniziativa, questa provocazione per evidenziare un periodo difficile che tutti gli imprenditori stanno subendo, più che affrontando. Subendo perché? Perché a fronte di richiesta di produzione, richiesta di sviluppo, di innovazione, non abbiamo la possibilità di avere liquido dalle istituzioni di credito. Quindi le banche, quindi ce l'ha con, intanto un messaggio alle banche, aiutate questi imprenditori. Assolutamente, lei deve pensare che questa cosa qua, pensavo avesse un ritorno, non pensavo un ritorno così forte, ma ieri sera sono arrivato a casa, ho scaricato la posta, ho avuto almeno una ventina di mail di imprenditori che mi appoggiano e mi descrivono le loro... Beh, non pensava, lei va sul Corriere della Sera nudo e pensa di non ottenere... Sì, no, non pensavo di avere un riscontro così forte direttamente da parte degli imprenditori che mi scrivono mail sottolineando le loro difficoltà, appoggiandomi. E poi l'altro messaggio va alla politica a cui chiedo: ascoltate le voci di noi imprenditori. Lei credo che abbia detto una politica, non mi interessa dire di destra, sinistra, eccetera. Sì, è chiaro che immagino si faccia riferimento soprattutto a chi governa nel momento in cui sta governando. Assolutamente, sì. Oppure no. Ma cosa chiederebbe lei? Alle banche l'ha detto, più credito, più fondi di credito insomma per gli imprenditori, sostenere più gli imprenditori invece di essere un po' restrittivi. Oggi come oggi l'imprenditore per avere liquido, per avere un credito, deve offrire delle garanzie che sono molto superiori a quello che viene chiesto in banca. È una cosa che non è sostenibile, non è concepibile. A fronte di 100 bisogna garantire almeno 200. E invece alla politica cosa chiede? Perché sa, tutti hanno anche subito pensato all'altro appello, quello di Della Valle, no? Sì. L'imprenditore, se mi permette, anche più celebre, più famoso di lei, che insomma ha fatto un jacuzzi molto duro a tutta la politica. Lei che chiede alla politica? Ma alla politica, allora, diciamo, meno burocrazia, più elasticità, più velocità e ascoltare quando chiediamo. Penso sia l'unica cosa che c'è da fare. Noi imprenditori siamo, diciamo, i primi a produrre PIL, quindi date una zappa sui piedi, non ascoltare chi produce il PIL, alla fine poi tutto torna sempre. Dice, non aiutare le aziende vuol dire poi affossare il motore di un paese. Senta, e poi comunque un'altra cosa anche, ascoltare quello che viene chiesto dal, chiamiamolo, lavoro dipendente. Dobbiamo cercare di creare più potere d'acquisto per i lavoratori. Secondo lei non è possibile, cioè è possibile che un qualsiasi lavoratore che utilizza un mezzo di trasporto e spende per andare a lavorare non ha la possibilità di detrarre fiscalmente le spese per andare a lavorare. Solo facendo questa operazione qua si aumenterebbe il potere d'acquisto del lavoratore dipendente e quindi vorrebbe dire più acquisti, cosa vuol dire? Più IVA, dove finisce l'IVA? Nelle casse dello Stato. Quindi dice più forza agli imprenditori ma anche più forza al lavoratore dipendente in modo da creare un circolo virtuoso. Senta, ma lei quando l'ha chiesto ha fatto come Benetton, insomma un altro suo conterraneo, diceva io non lo sapevo niente che Luciano, ma come non sapeva che Luciano Benetton? No, io nel 93 ero studente, nel 93, sì. E politica mi interessavo praticamente zero. quando ho deciso di fare questa operazione qui, il giorno dopo poi ho visto sul giornale che dopo 18 anni, come l'imprenditore Luciano Beretto, anzi onorato di essere, tra virgolette, paragonato a un guru della comunicazione dell'imprenditore italiano. Perché lui l'aveva fatto per pubblicità proprio, no? Come già. Sì, sì. Lei invece l'ha fatto un po' magari anche per pubblicità, cioè avrà il suo ritorno, e però anche come gesto di polemica, di gesto di sfida, di voler lanciare un messaggio. Sì, diciamo che principalmente è un messaggio di non di sfida, è un messaggio per sottolineare questo periodo difficile. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo tirarci sulle maniche e evitare di dire tu hai l'orto più bello del mio, io ho l'orto più bello del tuo. Si lavora tutti insieme un orto unico per riuscire a superare questo periodo difficile. Senta, le ultime due cose, la prima Frare è questa, credo che lei agli appelli che le siano arrivati anche a dire ma perché non se ne va all'estero allora, perché non se ne va via, perché non delocalizza, no? Questa famosa parola che si usa nell'economia, dice no, io resto, cioè io voglio combattere qui in Italia, insomma l'attaccamento anche alla propria terra, al proprio paese, no? È così. Sì, guardi, proprio ieri mi è arrivata una mail di una ragazza che ha delocalizzato e mi fa bravo, continua a lottare per rimanere in Italia perché lavorare all'estero sicuramente è più bello, ma dal punto di vista della vita non è bello come in Italia, perché io devo privarmi, dopo aver lavorato una giornata, di godermi la mia terra? Perché? Perché devo andare in Svizzera piuttosto che in Austria o in un altro paese dove ti offrono sicuramente delle opportunità economiche differenti, dei sostegni diversi, a fronte di creare lavoro per i cittadini di un'altra nazione. Perché questo? E lei insomma ha questo attaccamento. E poi insomma la curiosità, ma non so se ce lo vuol dire, ma quanto costa una pagina sul Corriere della Sera? Cioè per mostrarsi nudo? Questa è una domanda che mi pongono tutti alla fine. Secondo me è costato il giusto. Però non c'è sull'ordine di, no? Qualche decina. Sull'ordine di quello che potevo. Questo certo. Quello che potevo, secondo me, è costato il giusto. Comunque, tanto la ringrazio. Ci dica due dati del suo gruppo, giusto per dire fatturato, che cosa fa? Guardi, allora, tra le altre cose, io sono una startup, quindi io ho iniziato la mia attività nel gennaio scorso, dopo aver rilevato un'azienda che aveva chiuso per difficoltà. E, ad oggi, diciamo che il fatturato è minimo, perché abbiamo venduto lo stock di magazzino e abbiamo subito iniziato a fare ricerca e sviluppo. Startup cosa vuol dire? Vuol dire investire soltanto. E certo. Quindi i primi guadagni importanti arriveranno con il 2012. Certo. Come cosa? Magari anche sul traino di questa immagine che l'accompagnerà un po' per tutta la vita imprenditoriale, insomma. Però insomma, ha fatto questo gesto diciamo di sfida. Ho cercato di sottolineare una difficoltà, come dicevo prima, cercando di fare una cosa diversa. Tutti oggi scendono in piazza, ormai chi scende in piazza non lo guarda più nessuno. Tutti si omologano scendendo in piazza. O prendi il coraggio, devi fare una cosa coraggiosa, una cosa diversa. E questo coraggioso un po' lo è, un po' di imbarazzo l'ha provato o no davanti al fotografo? Ma guardi, sinceramente non ci ho pensato, perché io avevo la mia idea in testa e quando uno ha un'idea chiara, ben delineata e definita e vuole arrivare all'obiettivo, si fa scivolare un po' tutto quanto. Va bene, intanto io la ringrazio ovviamente, buona giornata. Grazie per essere stato con noi Enrico Frare, imprenditore trevigiano, il marchio Colle abbigliamento sportivo, insomma siamo stato nudo su una pagina del Corriere della Sera a dire ogni giorno guardate che in Italia un imprenditore rischia di rimanere così, senza mutande. Ci fermiamo, la pubblicità e il meteo, e poi avremo ospite il magistrato Antonio Ingroia, Palermo, un'altra storia di una persona sotto attacco, sotto critica in questo momento per quello che ha fatto qualche giorno fa. 24 mattino. Allora, le 8:36 minuti, eccoci, voglio salutare il procuratore aggiunto a Palermo, Antonio Ingroia. Dottor Ingroia, buongiorno e benvenuto a Radio 24. Buongiorno a voi. Allora, ci deve spiegare un po' questo fiume di polemiche che le sono piovute addosso dopo che lei è andata a un convegno, il convegno del Partito dei Comunisti Italiani, e ha detto, in estrema sintesi, è stato sintetizzato così dai giornali, un magistrato deve essere imparziale quando esercita le sue funzioni. Berlusconi, ma io confesso che non mi sento del tutto imparziale, mi sento anzi un partigiano della Costituzione. Detto che a me il fatto che lei sia un partigiano della Costituzione mi sembra una cosa abbastanza ovvia, tutti dovremmo esserlo, no? Infatti questo è il tema. Però lei l'ha detto, no? Qualcuno dice conta anche non solo cosa si dice ma anche dove uno lo dice, per esempio al congresso dei comunisti. Ovviamente un ospite esterno invitato a fare un intervento sul tema di costituzione, legalità, criminalità, questione criminale oggi. E io credo che anche questo, diciamo, il fatto che si sia criticato la partecipazione al dibattito politico, interloquendo con la politica, di un magistrato sia sintomo di un preoccupante arretramento del livello politico-culturale nel nostro paese. Nel senso che sono assolutamente convinto che 20 anni fa a nessuno sarebbe passato per la testa, di fronte a una situazione analoga, identica, di fronte a queste cosiddette, anche in sedi come queste, di attaccare in questo modo magistrati. Cioè, sono andato al partito, questa cosa del PDC, ma sono andato ad altre iniziative che so di Futuro e Libertà, che certamente comunisti non sono. Il tema non è, ovviamente, non bisogna, il magistrato non deve schierarsi con nessuno, non deve essere collaterale con nessun partito politico, ma deve avere il diritto di interloquire anche con la politica su temi che riguardano la magistratura. Infatti lei oggi, questo è il senso di una lettera che ha scritto e il Corriere della Sera ha pubblicato oggi a pagina 19, lei si chiede, ma insomma, è consentito a un magistrato qualunque esprimere la propria opinione su queste tematiche? Lei quindi non vede nessuna, diciamo, imbarazzo nel fatto di essere in una manifestazione, seppure lei dice non ero un iscritto a parlare del Partito dei Comunisti Italiani, ero collaterale, diciamo, a questa iniziativa, però non vede nessun imbarazzo nell'essere lì a parlare di questi temi? No, oltre a non vedere nessun imbarazzo, di più, non solo non vedo un imbarazzo, sono preoccupato per il fatto che sia prevalente, è evidente questo, sia prevalente prevalente nel paese percepire invece che c'è qualcosa che non va, e questo, ribadisco, 20 o 30 anni fa non sarebbe accaduto, ed è una significativa dimostrazione di una compressione di fatto degli spazi di libertà di opinione e diritto di partecipazione al dibattito politico del nostro paese da parte di alcune categorie di cittadini. Ma perché lei ha dovuto sottolineare sono un partigiano della Costituzione? Vede qualcuno che non lo è? Dico, non credo che si possa, come dire, non si può non vedere, come si dice nelle aule giudiziarie, non vi è chi non veda che in atto vi è un chiaro manovra, io ho chiamato con un'altra espressione forte, di assedio nei confronti di alcuni principi costituzionali base. Per parlare sempre di giustizia e magistratura, tutta la teoria delle leggi de personam e poi la legge sull'intercettazione e così via, sono tutte leggi che puntano a restringere i margini di autonomia e indipendenza della magistratura, a intaccare il principio, alto principio nodale della Costituzione, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. E capisce che è su questo che l'accusano di fare un attacco politica, perché queste leggi sono leggi volute dall'attuale maggioranza. Certo, non c'è dubbio, però ribadisco ancora una volta, rivendico il diritto di ogni categoria professionale, magistrati compresi, a partecipare al dibattito politico su progetti di legge. Addirittura c'è un progetto di riforma costituzionale in materia di giustizia, avrà o non avrà diritto la magistratura a dire la propria? Dopodiché, come suol dirsi, il Parlamento è sovrano, se il Parlamento dovesse decidere di approvare la riforma costituzionale o di approvare queste leggi, un magistrato non può far altro che applicarle. Però prima che siano approvate è giusto che interloquisca con la politica, con il potere legislativo e col Parlamento, o con comunque le forze che possono in qualche modo influire su quello che accadrà. Dottor Ingroia, ci spiega questo concetto che lei oggi spiega al Fatto Quotidiano. Io sono imparziale in amministrare la giustizia, ma non sono neutrale, perché qualcuno dice, ecco, per esempio, lei ha anche in mano alcuni fascicoli, ha istruito dei fascicoli, quello più importante forse che conosciamo è quello sulla vicenda dell'Utri, che è un politico di centrodestra. Allora si chiede come fa a essere, dopo queste idee, poi imparziale nel giudicare. E allora, a parte il fatto che vabbè, sono PM e quindi parte, certo. E quindi non è ovviamente lo stesso grado di imparzialità del giudice o del pubblico ministero, ma ad ogni modo la imparzialità significa trattare nello stesso modo gli indagati, gli imputati che ti ritrovi, i cui fascicoli ti ritrovi sulla scrivania, e questo, come ho detto più di un'occasione, sfido chiunque a dimostrare il contrario. E il tema invece della neutralità è un discorso, diciamo, un po' più sottile, dal quale bisogna un po' uscire da certe ipocrisie. La interpretazione della legge, l'applicazione della legge, non è un'applicazione, diciamo, neutrale, scevra da opzioni di fondo. E allora io dico che dichiaro le mie opzioni non sono ovviamente né politiche né ideologiche, ma sono soltanto le opzioni valoriali, e sono i valori della Carta Costituzionale. Io quelli considero i miei punti di riferimento, e in relazione ai capisaldi della Costituzione oriento la mia attività giudiziaria. E quindi tra questi il caposaldo fondamentale, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, conseguenza imparzialità, e adeguo anche la mia, come dire, il mio impegno nella partecipazione al dibattito politico su questi temi, e cercando di difendere per quanto io posso i valori costituzionali. Lei comunque ha detto sapeva di suscitare un po' di polemiche, nonostante ciò ha detto sapevo di suscitare un po' una sorta di provocazione, quella che voleva fare. Provocazione forse è una prova forte, ma certamente lo sapevo, ma io visto quell'arretramento del livello del dibattito politico culturale in Italia, io non mi rassegno a questo arretramento, e quindi credo che chi è convinto che bisogna ripristinare un livello serio ed approfondito del dibattito, dal quale la magistratura non può essere esclusa, ho voluto in questo modo anche ribadire questo diritto, partecipando anche a costo di andare incontro alle prevedibili polemiche che ne sarebbero. E andrà comunque, anzi lei ha detto andrei anche se mi invitano al Popolo della Libertà. Ovviamente sì, non è mai accaduto che io sia accadrà invitato. Che non credo. Non credo. Io ho molta voglia di ascoltare il punto di vista della magistratura e magari di alcuni magistrati, però ovviamente io non ho mai fatto una scelta, un'opzione, non ho pregiudizi nei confronti di nessuno. L'unica condizione che non venga posto a confronto, a contraddittorio con i miei indagati e i miei imputati. Vabbè, ma questo ci mancherebbe. Cosa che può accadere anche in platee politiche. Ma fatta eccezione, diciamo, fatta questa eccezione, sono pronto a andare in qualsiasi. Senta, ma il fatto che la additino come una toga rossa, per esempio, anche oggi su Libero, il giornale continua a dire che questa persona non è compatibile, cioè dovrebbe lasciare la magistratura. Il dottor Ingroia non è più compatibile con il suo ruolo di magistrato. Ognuno, diciamo, fa parte della libertà di espressione fin tanto che non si arriva agli insulti. E quindi poi vedremo. Toga rossa è un insulto? Toga rossa secondo lei è un insulto? Toga rossa implica un giudizio, appunto, di schieramento politico, eccetera, quindi lo considero un insulto. Però dico, al di là di questo, il punto è, certo, se si manipolano le mie dichiarazioni o come ieri si è letto sul giornale, decontestualizzando le mie dichiarazioni, dove li si dice io sono partigiano, addirittura c'è un titolo che si dice Ingroia si confessa di essere comunista. Allora, se anche il ministro Rotondi ha detto ringrazio Ingroia che ha fatto questo outing, il primo magistrato comunista che si... Vabbè, ma forse il ministro Rotondi non ha avuto il tempo di sentire il mio intervento, ha letto soltanto le pagine del giornale e quindi ha capito che io ho detto una cosa diversa da quella effettivamente dichiarata. Io non mi sono dichiarato partigiano comunista, mi sono dichiarato partigiano della Costituzione e sfido qualunque ministro della Repubblica a dire che questa dichiarazione è scandalosa e non sottoscriverla, altrimenti dovremmo essere preoccupati. Lei comunque non si candida perché si era vociferato anche di una sua discesa scesa in politica. Ma se ne sono dette tante, candidato sindaco, candidato... Non entrerà mai in politica, mai? Lei mi chiede... un impegno che non viene chiesto a nessun cittadino italiano e quindi non può essere chiesto neppure a nessun magistrato, diciamo che non ne vedo attualmente le condizioni. Cosa ne pensa dei magistrati che vanno in politica? Per esempio dovrebbero abbandonare la toga definitivamente? Quindi io penso, primo, che anche i magistrati non possono essere espropriati di un diritto, anche questo costituzionale, di elettorato, non solo attivo ma anche passivo. Secondo, che ci sono dei profili però di inopportunità. I profili di inopportunità sono, primo, che secondo me in ogni caso è inopportuno, non è vietato, è legittimo, è anche accaduto, ma non è opportuno che un magistrato si candidi a attività politico-amministrative nel luogo in cui ha esercitato le funzioni sino a poco tempo prima, magari in ruoli particolarmente esposti. Non si candida sindaco a Palermo, questa non personalizziamo, le vecchie certo. I principi generali. Con le dovute eccezioni, perché un giudice civile che non sta sui giornali un giorno sì e un giorno no, perché impedigli eventualmente di candidarsi anche nel luogo in cui ha esercitato le funzioni. E secondo tema, in ogni caso evitare le commistioni tra territorio in cui si sono esercitate le funzioni e eventuale candidatura. Terzo, c'è il problema del rientro. Rispetto al rientro credo che le cose sono due, su questo comunque c'è un dibattito aperto anche in magistratura, dimissioni totali, come ha fatto il ministro Palma, ma credo l'abbia fatto soltanto appena nominato ministro della giustizia, oppure diciamo così un impegno del magistrato a non tornare in ogni caso in ruoli o in funzioni calde, qualora dovesse fare una breve esperienza politica e poi tornare in magistratura, come il dottor Ayala, che è in corte d'appello all'Aquila, quindi non più un ruolo di primo. Insomma, lei la vede così, comunque non esclude il mai. Io intanto la ringrazio, dottor Ingroia, per essere stato con noi. Bene. Antonio Ingroia è procuratore aggiunto a Palermo, ci fermiamo per il traffico e poi ci sposteremo a Napoli per una bella pizza. Allora, per concludere questo percorso, questa puntata del Noi Non Ci Stiamo, voglio salutare Gino Sorbillo. Buongiorno, signor Gino. Buongiorno. Titolare, eccoci, della storica pizzeria Sorbillo a Napoli. Lei è quello... Io guardi che abbiamo preso la sua foto, l'abbiamo messo sul nostro profilo di Facebook 24 Mattino. Che cosa ha scritto? Che ha scritto davanti qui, deputati e senatori pagano la pizza quanto? 100 euro. Perché? Cioè, questa rivolta anticasta ci è piaciuta moltissimo. Per scherzare, no, ma poi pagano veramente. No, per scherzare, serio. Pagano veramente 100 euro. Ma c'è anche... È stata una persona, la prima, diciamo, tra virgolette, vittima, diciamo, che non ha, devo dire la verità, non ha per niente replicato. Stesso nella giornata di sabato, la sera, però, è venuta, diciamo, a mangiare la pizza e ha pagato 100 euro, una classica pizza tutta campana, che sarebbe quella lì con i broccoli che qui in Campania chiamiamo frierelli. Ah, certo, i frierelli. Che è Sergio D'Antoni, se non sbaglio. Che poi, voglio dire, non è che è una fregatura, perché l'avete messo sulla vetrina e quindi se un deputato o senatore entra lo sa che deve pagare. C'è un foglio di carton Bristol all'ingresso che sarà 50x50, quindi bello vistoso, bianco, come l'immagine oramai ha fatto il giro dell'Italia e non solo, col pennarello rosso e blu c'è scritto quello che tutti ben 100 fanno. Euro, che peraltro date vi tenete il costo della pizza. In verità come prima volta addirittura daremo l'intero importo, quindi non ci sarà in beneficenza il costo della pizza sottratto. È proprio una cosa contro i politici, diciamo, e perché l'avete fatta? No, perché ci è capitato tra le mani questo scontrino della mensa del Senato, dove ci sono notati dei prezzi ridicolissimi. Ah, sì, e sì, da qui sì. La protesta, perché la pizza Napoli, come tutti ben sanno, è la pizza napoletana è amata in tutto il mondo. Noi come pizzeria Sorbillo, che siamo quasi da un secolo nel centro storico di Napoli, facciamo veramente facciamo lavoro con tantissima gente, col popolo, con i turisti che vengono da ogni parte del mondo per, e tra le varie meraviglie che visitano nella nostra città, anzi dopo aver visitato tante belle cose poi decidono di mangiare una pizza che però è una pizza popolare, no? Certo. Che parte dai 3 euro, cioè è accessibile a tutti. E abbiamo le specialità del territorio, abbiamo il pomodoro così, la mozzarella così, l'olio così. Allora da qui questa, diciamo, pacifica ma comunque forte protesta di dire allora un'eccellenza così amata in tutto il mondo, così genuina, così buona, al deputato, al senatore, queste persone vogliamo che sia un faccia lusso, pagare 100 euro. E poi invece il caffè 90 euro, ha chiesto anche il caffè. Da lì si è scatenato tutto, perché poi hanno aderito bar, gelatai, hanno aderito di tutto e di più, oramai a macchia d'olio. Adesso ho perso il conto delle persone che hanno aderito, sinceramente. Vabbè, ma però non so, adesso D'Antoni forse voleva anche un po' far vedere che lui, però adesso non saranno molti deputati e senatori che verranno da voi, no, a spendere. Io invece penso che verranno, non dico di più, ma anzi forse lo dico, secondo me vengono di più. E a farsi spennare. Ma anche perché, come ha detto l'onorevole Sergio, che era contento pure del fatto che questi soldi andavano in beneficenza alla LTM.ong, si trova a Napoli, sempre una, sarebbe la Laici Terzo Mondo. Ok. Trova a Napoli in via dei Pretis. E non sappiamo se. Fatto sta che da parte nostra non c'è nessun motivo di lucro. No, oggi proprio questa iniziativa a dire. Euro verranno date alle 15:30 in pizzeria, con tanto di foto verranno date. Ah, oggi ci sarà la consegna, oggi ci sarà la consegna dei primi 100 euro in beneficenza. Alle 15:30 verrà fatto tanto di foto e poi verranno diffuse per dimostrare a tutti quello che si fa. Vabbè, intanto io la ringrazio, ci tenga aggiornato di quanti deputati e senatori si faranno spennare 100 euro per la pizza, 90 per il caffè e credo 350 per il panino, qualcuno ha detto ma com'è 350 euro, vabbè, da dare in beneficenza così almeno questi della casta pagano un po'. Visto che al Senato mangiano con 4 euro più o meno. Ma poi non è vero, sono aumentati i prezzi. In ogni caso devo chiudere, devo dare la linea a Oscar Giannino. Anche lui oggi in diretta è qui. E allora io ringrazio tutti e chiudo. Domani alle 7:20 ci siamo. Scriveteci 24 mattino a etradio24.it o andate sulla nostra pagina Facebook 24 mattino. A domani.